Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti alla prima puntata di Agosto, tecniche di sopravvivenza. Sono le 10.08 di lunedì 2 agosto. Beh, direi la data ideale per cominciare un programma come questo. Ma di che cosa si tratta? Il titolo già dovrebbe avervi detto tutto. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Sì, perché agosto è un mese dal quale cerchiamo di uscire sempre senza farci troppo del male. Agosto dovrebbe essere un mese nel quale vivere le nostre vacanze, vivere in tranquillità, e in realtà spesso si rivela essere un tunnel dal quale cercare di uscire indenni. E noi saremo qua con voi per darvi delle dritte tutti i giorni, tutte le mattine dalle 10 alle 11, ed ogni giorno affronteremo un tema diverso, perché sia che voi siate partiti per le vacanze, sia che voi siate rimasti a casa, pensateci bene, agosto non è un mese facile, spesso ci sono gli imprevisti degli allarmi di casa, del vicino, di quello che abita nel piano di sopra che continua a suonare e nessuno lo stacca perché lui è partito per le vacanze. Se siete partiti per il mare, c'è il vicino di ombrellone che è molesto e vi disturba, ci sono i bambini che vi camminano sull'asciugamano e ve lo riempiono di sabbia. Insomma, cercheremo insieme di capire come si possono superare tutti questi imprevisti che il mese di agosto nasconde. Ma mi sembrava carino iniziare questa serie di 25 puntate insieme a voi per tutto il mese di agosto con un tema che mi è abbastanza caro, che mi è vicino, cioè: che cosa avete fatto quella volta che vi sono saltate le vacanze? Eh sì, perché anch'io fino a qualche settimana fa stavo programmando un viaggio per essere lontana dalla città, per essere via in agosto, e poi Radio 24 mi chiede di fare un programma tutti i giorni, in diretta, in agosto. Vabbè, cosa faccio? Un accetto? Certo che accetto. E quindi ho cercato, dopo lo stordimento iniziale, di trovare, insomma, l'opportunità. Ecco, oggi raccontatemi le vostre esperienze all'800 24 0024. Cosa vi è successo quella volta che vi sono saltate le vacanze? Come siete riusciti a trasformarlo in un'opportunità? Mandatemi i vostri sms al 349 238 6666, che magari ci facciamo anche due risate, perché ognuno ha la propria esperienza. La mia è quella di essere qua con voi tutto il mese di agosto, ma qual è la vostra? Alberto, ma sei impazzito? Vuoi che me ne stia qua dentro due settimane al buio? Non qui dentro, di giorno ci vedrebbero, e poi viene Melania a innaffiare le piante. Ah sì? Allora dove pensiamo di stabilirci? Tu sei pazzo! Completamente! E secondo te io passo le mie ferie in cantina? Sì, perché cosa c'è che non va? C'è gente che vive in posti molto peggiori, palafitte, grotte, iglu. E poi, non sono mica 10 anni, non è mica l'ergastolo. Sono due settimane, che sarà mai? Due lunedì, due martedì, due mercoledì, due giovedì, due venerdì, insomma era Mari del Sud di Marcello Cesena con Diego Batantuono, un film molto divertente e ve lo consiglio se vi sono saltate le vacanze e volete farci due risate. A lui le vacanze vanno decisamente male, fra l'altro è costretto a rimanere a casa per un problema economico, e così si rifugia nella cantina di casa insieme alla moglie e ci sta appunto due settimane per non subire l'onta di non essere partito per le vacanze. Ma per lui, per esempio, questo è l'occasione per recuperare il rapporto con la moglie. Ecco, oggi stiamo parlando di questo. Che cosa avete fatto quella volta che vi sono andate a monte le vacanze? Ma soprattutto, perché vanno a monte le vacanze? Ci sono una serie di motivazioni, ci sono una serie di perché. Perché siete rimasti a casa? Ma noi abbiamo stilato una scheda con una serie di motivi. Vediamo se vi riconoscete. La cartella esattoriale che ti segnala 5.000 euro di tasse non pagate. L'hotel che hai prenotato non accetta il tuo Lillo. È chiaro, chiamare un cocker con quel nome. La zia ha deciso di passare le vacanze da te tutto il mese, anche se abiti con vista tangenziale. Hai dato una caparra stratosferica per un villaggio che ancora devono costruire. Hai appena cambiato lavoro e maturato 1,5 giorni di ferie. Finalmente, a fine luglio, la banca ha accettato la tua richiesta di mutuo. La prima rata alla firma. Che fai? Non firmi? Sei un freelance e dopo 3 mesi di vuoto cosmico ti arriva il primo incarico. Consegna tassativa, 30 agosto. Non sei contento? vi siete riconosciuti? Beh, l'ultima è una cosa che mi riguarda abbastanza da vicino. Comunque, se non vi siete riconosciuti, mandateci le vostre motivazioni al 349-238-6666 oppure chiamate all'800 24 0024 e raccontateci di quella volta che vi sono andate a monte le vacanze. Magari è successo non proprio questo agosto, magari questo agosto siete già partiti, siete già in spiaggia, magari state raggiungendo il rifugio dove vi ingolferete di panini con la salamella. Però se ci pensate bene, nella vita è successo quasi a tutti che una volta saltassero le vacanze. Ecco, quali sono le vostre motivazioni? Noi cerchiamo insieme di trovare degli escamotage, insomma delle astuzie per farvi uscire dai problemi che si possono presentare ad agosto. Cerchiamo di riderci sopra, ma in realtà non è da sottovalutare la frustrazione di un viaggio che salta, perché è chiaro che una vacanza che improvvisamente sfuma può creare dei problemi e non è cosa da prendere sotto gamba, vero dottor Pellai? No, è una di quelle inattese avventure che ci possono capitare nella vita e nelle quali entriamo a volte con più ottimismo, a volte con più pessimismo. Secondo me, di fronte a questi fatti avversi, ognuno ha un po' il suo carattere e quindi tende, se è un catastrofista, a dire hai visto non me ne va mai bene una e quindi anche giusto, questa è andata storta. Se invece è un ottimista, dire chissà quali opportunità si celano dietro a questo contrattempo che non mi aspettavo. Io sono rimasto per esempio molto colpito di recente quando la nuvola del vulcano islandese ha fatto saltare i programmi di viaggio di moltissime persone, di ascoltare una amica che doveva proprio partire per il Mar Rosso in quei giorni e è saltato tutto, commentare probabilmente è meglio che io resti a casa, questo è il regalo che mi ha fatto il destino. È fatalista quindi. Stiamo parlando col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta che per molti di voi sarà una voce nota, conosciuta, perché conduce insieme a Nicoletta Carbone Questa casa non è un albergo, che va in onda il sabato. Ecco, quindi può esserci una differenza tra il carattere delle persone che rimangono a casa, quelle che partono, quindi il catastrofista piuttosto che l'ottimista. Ma di solito quali sono le reazioni tipiche di chi è costretto a rimanere a casa? Mettiamola così, il catastrofista che cosa pensa? Ma il catastrofista vedendo sempre il bicchiere mezzo vuoto, effettivamente si sente perseguitato dalla vita, dal mondo e dai contrattempi. Conseguentemente entra proprio in un turbine di pensieri negativi che come un vortice lo trascinano verso gli abissi della disperazione. Giusto. Uno dei rischi grossi, proprio in termini psicologici, è poi la generalizzazione, cioè concludere dal fatto che non riesco a partire per questa vacanza, allora non riuscirò a partire mai per una vacanza, non riuscirò a divertirmi mai, nessun viaggio sarà più bello per me. Certo, ma agosto per esempio rende tutto più difficile proprio perché è un mese che si carica di tante aspettative o è così per il resto dell'anno anche? Ma in realtà agosto è particolarmente faticoso per chi deve affrontare un contrattempo, perché uno dei problemi fondamentali è che di fronte ad una difficoltà, se tu hai una spalla amica sulla quale appoggiarti e con cui provare a piangere, a cercare conforto, tutto diventa un po' più leggero da sopportare. Certo. Invece agosto spesso devi affrontare fatiche e difficoltà in totale solitudine e questo chiaramente per chi ha poche risorse per affrontare le avversità risulta un ulteriore fattore di rischio che precipita ancora di più nel buio. È chiaro, ma quali possono essere le tecniche di sopravvivenza appunto per una vacanza che è mandata a monte e magari alla quale stiamo pensando da mesi? Fondamentalmente bisogna convincersi che se la vacanza è saltata noi non possiamo farci più niente, perché una delle cose che spesso le persone fanno è quella di perdere un sacco di tempo, un sacco di energia e poi proprio un sacco anche di positività alla ricerca di un rimedio. Certo. Una cosa è irrimediabile, questo è il primo pensiero che dobbiamo proprio fissarci nella mente, non si può fare niente e conseguentemente bisogna muoversi in un'altra direzione, non rincorrere quello che si è perso, ma cercare un modo alternativo per vivere in un altro modo quello che si è perso. In questo senso sono molto più fortunati quelli che hanno un pensiero positivo a loro disposizione, quindi cercano poi alla fine di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, perché da quel momento cominciano a costruire l'alternativa. E le direzioni che secondo me è importante provare a considerare sono intanto chi può stare con me e chi mi può aiutare in questa situazione difficile, uh-huh, nel caso ci sia qualcuno a cui possiamo fare ricorso in termini proprio di spalla e di conforto. Il secondo aspetto è che cosa c'è dietro l'angolo che io ancora non conosco, cioè che cosa ho a disposizione in termini di tempo, in termini di energie, eventualmente in termini di denaro, e quindi che cosa posso scoprire oggi che non avevo previsto e che devo reinventarmi un modo per trascorrere la vacanza. Chiaro, quindi ribaltare il punto di vista, insomma, esatto, su questo agosto. Quando salta una vacanza uno pensa che ho svuotato il tempo, e invece posso vederla come molto altro tempo libero che a questo punto devo cercare di riempire inventandomi un modo per farlo diventare un tempo costruttivo. Perfetto, quindi organizzarsi qualcosa di alternativo, giustamente, sì. E quindi si può dire che è un trauma, ma in un certo senso è anche un'opportunità, appunto. Ma questo è sempre uno di quei meccanismi che di fronte a qualsiasi avversità della vita uno la può individuare prima di tutto come un evento critico, quindi non la si può negare, ma dentro a una crisi c'è sempre una possibilità, quindi la possibilità di conoscere, di scoprire cose di noi stessi che non sapevamo esserci. Il secondo aspetto è che effettivamente comunque il tempo della vacanza, se anche non è riempito da un viaggio, ci dà la possibilità di tuffarci in un mondo di passioni, di lettura, di cinema. Anche la stessa città durante il mese estivo può diventare una scoperta fantastica da fare, per cui posso guardare i luoghi di sempre con uno sguardo nuovo. Vero, infatti noi dedicheremo più di una puntata a questa cosa dell'agosto in città. Allora Alberto, sei stato veramente esaustivo e hai sicuramente dato delle tecniche di sopravvivenza ai nostri ascoltatori. Grazie mille, a presto. A voi, buona vacanza a tutti. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Eccolo il primo consiglio di Agosto, tecniche di sopravvivenza. Stiamo parlando di quella volta che vi sono saltate le vacanze e di come siete riusciti a trasformarlo in un'opportunità. Sono arrivati un sacco di sms al 349-238-6666, ma anche delle telefonate all'800-24-0024. E adesso parliamo con Giuseppe da Bergamo. Ciao Giuseppe. Ciao Morena. Ciao Giuseppe. E allora, cosa è successo? Quest'anno mi sono saltate le vacanze per la prima volta, ma per una cosa bellissima della vita. Uh-huh. Il 15 maggio mi sono nati due maschi e due gemelli maschi. Ma che meraviglia! Ma... Per cui siamo andati a giugno, abbiamo cercato di fare 3 giorni in Costa Azzurra, siamo scappati via perché dovevo affittare un camion tir, passeggino, carrozzella, sterilizzatore, scalda biberon, latenedina 1, acquazza industriale, insomma tutta la roba. Siamo tornati a casa e abbiamo detto vabbè, quest'anno lasciamo perdere tutto e rimaniamo a casa. Certo. Tra l'altro c'è l'Edoardo che quando lo cambia la raffella, dopo 3 minuti, 1 minuto e mezzo, 2 minuti, il biberon butta giù la casa. Eccola. Per la fame. Questa è una cosa molto bella. Stavo ascoltando la vostra trasmissione, molto bella, interessante, intelligente. Grazie. Anche perché c'è gente che ci rimane male perché non fa le vacanze. Io devo dire che non poteva succedermi una cosa più bella quest'anno. Beh, tu hai avuto una bellissima notizia, quindi va benissimo. Ma senti, ma agosto con due gemelli come sarà? Due gemelli piccoli piccoli, come pensi che sarà? Piccoli, belli, bello, anche perché domani sera arrivano i soci della Liguria, per cui io ritornerò a dormire le mie 5 ore a notte, perché un mese e mezzo ho dormito 40 minuti. Per cui per me è il massimo dell'aspirazione, dormire, insomma, pure mangiare uno spaghettino a casa, tranquillo. Certo. Una cosa molto bella, ecco, volevo dare la mia testimonianza che stare a Bergamo o a Milano, in questo momento sono a Milano, sono andato alla commercialista. Una cosa molto bella, interessante. Benissimo, siamo felici. Siamo felici per te e quindi saluti ai due bimbi e quindi buon agosto a Bergamo a questo punto. Ciao. A tutti, ciao. Ciao, ciao, grazie. Sì, stiamo cercando di riderci sopra noi, perché appunto, don't worry, be happy. Bisogna capire come trasformare in opportunità e magari farci 4 risate. Noi abbiamo chiesto ad una professionista della risata, ma Rita Pelusio. Rita, se ti dico agosto, che cosa mi dici? Ti dico interminabili code in autostrada, perché la cosa che succede a noi è proprio quella di dover andare a fare le serate nei posti ovviamente più turistici, per cui noi ci ritroviamo in coda, anche se noi andiamo a lavorare e la gente invece è lì per far vacanza, però è una cosa incredibile. Diciamo che andare a fare spettacolo ad agosto è difficile. Ti capisco. Stiamo parlando con Rita Pelusio, attrice e regista comica, la Wings di Colorado Caffè, e ci faceva piacere capire che cosa appunto succede a chi va per lavoro in coda, appunto, o si trova in agosto a dover sopportare le vacanze degli altri mentre loro stanno lavorando. Ma hai avuto delle tecniche in questi anni? Hai sviluppato un modo tuo di vivere l'agosto, oppure semplicemente ti lasci portare dove capita? Beh, no, quando non lavoro ad agosto, che di solito succede raramente, però magari capitano 2 settimane, vado nei posti più sperduti. Io ho una casa in Salento e, che e mi chiudo lì, chiudo, apro in realtà, perché c'è un mare meraviglioso, una natura fantastica, e quindi vado e sto lì e cerco di viaggiare il meno possibile, cioè non mi sposto neanche per bere un caffè, capito? Proprio giusto. Lì. Giusto, ma ti sono mai saltate le vacanze? Cioè, voglio dire, avevi mai? Sì, ti è capitato? Sì, non solo per lavoro, a volte per lavoro, cioè per lavoro una volta dovevo andare a Parigi e poi sono arrivate 2 date, allora ho detto al mio compagno dai, faccio queste 2 date e poi andiamo. È poi giusto, l'occasione. Quindi ho pagato un botto di penali d'aereo e non sono mai andata a Parigi e ancora non sono andata. Ancora non sei andata? Ah. No. E questa è una cosa di lavoro. Un'altra volta invece, vabbè, però ero più giovane, come dire, dovevo andare le prime vacanze in campeggio, dovevamo andare al Golfo di Baratti, c'era un ragazzo che mi piaceva un casino. Mm-hmm. E io ho detto, vabbè, dai, vado, così, esaltata, avevo comprato i costumi, tutto perfetto, e cado dalla bici prima no. di partire. Perdo un dente, quello davanti, adesso lo dichiaro, ho un ponte, quello davanti mi salta questo dente, mi faccio male anche alla faccia, insomma così. Un disastro. Io telefono e dico non posso più venire in vacanza, partite voi così, e lui carinissimo mi ha detto ti vengo a trovare, ma io non volevo che lui mi vedesse senza così. Dente. Quindi lui per una settimana, anche lui non è partito, voleva venirmi a trovare, ma io assolutamente mi vergognavo, ma veramente ero orrenda, senza dente, poi lui mi faceva un casino, e quindi io non gli ho permesso neanche di venirmi a trovare, lui si è offeso a morte, e poi tipo ci siamo messi insieme, ma dopo 6 mesi, insomma. Aha, beh, però qualcosa insomma è successo, no? Sei riuscita a ribaltare la situazione. Perso un dente, ma insomma la vacanza posticipata. Quindi vabbè, hai una tecnica particolare che vuoi raccontare ai nostri ascoltatori, qualcosa che si può fare appunto come è capitato a te, di riderci magari sopra anche senza un dente? Beh, insomma, se salta una vacanza quasi sicuramente poi si trova un'alternativa, no? Sempre a proposito di blocchi autostradali ad agosto, quello famoso e Barberino del Mugello. Sì, è vero, è sempre lì, tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello. Sono tante date in Toscana, capita spesso. Allora oramai è uguale per la vacanza, io a un punto esco e poi in realtà ti incazzi, oddio, ti arrabbi, ho detto una parolaccia, ti arrabbi all'inizio, però poi andando su per i monti, le colline così, vedi delle cose bellissime, quindi a volte salta la vacanza straorganizzata, però poi ne scopri un'altra molto più bella, no? Certo, ma per esempio, come può sopravvivere una Winx ad agosto, visto che sei conosciuta anche per questo? Una Winx ad agosto può sopravvivere solo con le magie. Giusto. Come dire, non si mette il bikini perché altrimenti non è più una Winx. Ma perché non è pronta alla prova costume? No, per... lei non è pronta mai alla prova costume. No. Ma no. Chi lo è? Diciamoci la verità. Infatti, e quindi, no, che dire, Morchia direbbe, vabbè, è saltata una vacanza, però potremmo andare da un'altra parte, va bene? Se sì, perché, se no com'è, oppure vabbè. Perfetto, mi sembra perfetto. Senti, per questo agosto hai qualche spettacolo, sei in giro per lavoro o quest'anno ti dedichi un po' magari alla vacanza o alla casa in Salento? No, vado in vacanza solo 10 giorni, no neanche, sì, 8-9 giorni, e poi in realtà lavoro, però mi è capitata questa cosa molto bella in Sicilia, in questo paese che si chiama Barcellona, e poi un altro nome, ma non mi ricordo, in questo parco naturale dove mi hanno chiamato per insegnare. Quindi vabbè, sarò lì anche a fare spettacolo, perché poi ho spettacoli a Catania, Messina, così, però diciamo farò una settimana dove insegno in questo posto che mi hanno detto tutti meraviglioso, quindi sarà lavoro vacanza. Ah, quindi a Barcellona Pozzo di Gotto, perfetto, fantastico. Eccola, esatto, in quel posticino fantastico. Bene, sei stata veramente fantastica, grazie mille a Rita e grazie mille alla Winx che c'è in te e in ognuno di noi, insomma, cerchiamo di utilizzare le tue pillole di saggezza. Grazie, a prestissimo, un bacio, ciao, ciao, ciao. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Ben ritrovati ad agosto, tecniche di sopravvivenza. Arrivano un sacco di vostri messaggi al 349-238-6666. Oggi stiamo parlando di quella volta che vi sono saltate le vacanze e di come siete riusciti a trasformarlo in un'opportunità. Non si firma e mi dice: a me le vacanze quest'anno non saltano, sto portando il mio coniglio e gli scoiattoli in pensione e stanotte volo in Sicilia. Olè, fantastico. Mentre Giulio mi scrive: settimana a Mykonos prenotata da mesi, partenza 5 agosto e lei il 31 luglio mi molla. Dov'è il lato positivo? Arrivano un sacco di messaggi di questo genere, cioè di gente lasciata, fidanzato che molla la fidanzata, e di pacchetti che poi non vengono utilizzati. Ma vogliamo parlare con Giorgio da Prato adesso. Giorgio? Ciao, buongiorno a voi. Ciao, buongiorno. Allora, raccontaci la tua esperienza di questo agosto. Sì, la mia storia risale all'agosto del 92, quindi sono già 18 anni fa, no? Io venivo dall'anno precedente, dove avevo avuto la fine di un rapporto piuttosto complicato, piuttosto burrascosa. E quindi ero in uno stato d'animo abbastanza particolare, no? Certo. In cuor mio ero segretamente innamorato di una mia collega d'ufficio che si chiamava Paola, che però era fidanzata da anni. E quindi le speranze erano veramente poche. In più, visto il periodo travagliato, la mia autostima era molto vicina allo zero. Quindi tutto, non pensando certo che potesse succedere qualche cosa, io mi ero prenotato quella che era ed è rimasto tuttora uno dei sogni della mia vita, quindi un viaggio in Norvegia su una ex baleniera per vedere le balene. Oh, che meraviglia! E mi sarebbe piaciuto molto, soltanto che contrariamente a quello che neanche nelle mie più rose previsioni avrei pensato, tra giugno e luglio successe quello che, ripeto, non avrei mai pensato, quindi quindi con Paola ci si mise insieme. Con la tua collega, quindi? E con la mia collega, della quale sono segretamente innamorato. Mi sembra fantastico. È proprio a ridosso del periodo delle ferie. E naturalmente mi era saltato il viaggio in Norvegia, però abbiamo passato l'estate quindi in zona, andando il giorno o in piscina o a giocare a tennis e la sera a caccia delle festicciole, insomma, che ci sono d'estate nelle colline, insomma, attorno a Prato, nelle colline attorno a Firenze, eccetera, eccetera. E abbiamo passato un'estate in zona, non muovendosi praticamente qui, ma era stata un'estate bellissima. Un'estate. E ancora adesso ricordo, tra l'altro ci ha portato molto bene, perché attualmente la mia ex collega Paola e mia moglie abbiamo una ragazza di 14, una ormai ex bambina di 14 anni e una bambina di 6 anni. Quindi, le tue vacanze ti hanno portato molto bene, direi. Sì, mi hanno portato fortuna. Approfitto, se mi consenti, per baciare Paola e le mie bambine. Ma naturalmente, lo facciamo anche noi, lo salutiamo. Grazie. Grazie mille Giorgio, ciao. E sono tante le esperienze di vacanze saltate che poi possono trasformarsi in un'opportunità o, come in questo caso, in un nuovo amore che sboccia. Ma nella storia, per esempio, che cosa è successo oggi 2 agosto? Perché ci sono delle situazioni nella storia, delle persone che sono state protagonisti di grandi eventi, di eventi memorabili, che se fossero partiti per le vacanze non ci avrebbero mai regalato questi eventi memorabili, appunto. Ma vediamo insieme. Il 2 agosto del 1948 a Londra, Fanny Blankers-Koen, l'olandese detta la mammina volante, vince i 100 metri alle Olimpiadi. Meno male che non era alle Seychelles. Il 2 agosto del 1955 viene brevettato il velcro. Come faremmo senza lo strip strap che affolla le nostre borse, i nostri pantaloni, le cinture, le scarpe? Il 2 agosto del 1961 il primo concerto dei Beatles al Cavern Club di Liverpool. Beh, imperdibile. We'll be right back. sempre ad agosto tecniche di sopravvivenza. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta e raccontarci di quella volta che vi sono saltate le vacanze, o i vostri sms al 349 238 6666. Noi siamo andati in giro per le strade così a vedere che cosa ne pensa la gente di agosto. Agosto alle stalattiti in una grotta freddissima della Croazia, in cui magari c'erano i sommergibili durante la seconda guerra mondiale, una cosa del genere. Agosto, la città libera, vuota, e per poter fare quello che vuoi. Cuore mio, non ti conosco come... Bellissimo, non vedo l'ora che arrivi. Con gli amici, al mare o a Catania. Vado in Finlandia e poi vado in India. Agosto, vacanze. Non lo so, caldo. Agosto uguale periodo di vacanza. Per me agosto è un momento in famiglia. Agosto, finalmente parto e sto 10 giorni senza mio marito. E me la godo. Agosto, amore mio, non ti conosco. Agosto, c'è chi parte, chi sta a casa, chi non sa cosa dire, chi ironizza, chi sta in famiglia e chi fugge dalla famiglia. Agosto è un vero meticciato di sentimenti. Ma in fondo, come potete impiegare il tempo che pensavate fosse già impiegato in una vacanza? Perché stiamo parlando di questo oggi, di quando vi sono saltate le vacanze. E fra l'altro, notizia di qualche settimana fa, e io la metterei tra le vacanze saltate, anche se è un modo diverso di saltare le vacanze, ci sono questa coppia di signori, vanno in una agenzia di viaggio e prenotano un bel viaggio per andare in Australia, il nuovissimo continente, e loro partono da Milano e decidono di andare a Sydney. Partono, peccato però che quando sono atterrati erano a Sydney in Canada e non in Australia, quindi con la vista sugli orsi e non sull'Opera House. Io la metto tra le vacanze saltate, non so cosa ne pensate voi, scrivetemelo al 349 238 6666. Però ecco, se siete a casa e non sapete che cosa fare e appunto le vacanze sono saltate e non avete in previsione un viaggio, diciamo che ci sono delle cose che si possono fare, possono essere anche molto utili, sono delle scelte responsabili. Per esempio, il volontariato è una di quelle cose che può far davvero svoltare il vostro agosto. Le mafie uccidono, trafficano armi, droga, esseri umani, rifiuti tossici. La magistratura e le forze di polizia da sole non bastano. C'è bisogno di tutti. Libera, dal 95, ha liberato beni confiscati ai mafiosi per tutti noi. Per questo, io, Andrea Camilleri, ho fiducia in Libera. Voce inconfondibile quella di Camilleri, che era il testimonial dell'associazione Libera in occasione della raccolta fondi per il 5 per 1000. Libera è l'associazione che combatte le mafie, www.libera.it, e per l'estate organizza anche dei campi estivi di volontariato sui terreni confiscati alle mafie. Quindi, se non sapete che cosa fare, potrebbe essere divertente iscriversi a uno di questi campi estivi. La campagna si chiama Estate Liberi, è chiaro, un nome molto efficace. E per avere informazioni sui campi di volontariato basta scrivere a estateliberi@libera.it oppure chiamare lo 06 69 77 0301. C'è l'imbarazzo della scelta, e questa, come si diceva prima, è certamente una scelta responsabile. Ma altra cosa, c'è qualcuno sul vostro divano di casa? Non so, una sorella boomerang, un amico che è stato mollato dalla fidanzata e non sa dove andare, quindi alberga sul vostro divano di casa. Ecco, se invece è libero, altra cosa che si può fare per questo agosto per organizzarsi le prossime vacanze magari è quello di iscriversi a www.coachsurfing.org. È un po' come se la vacanza venisse da voi, potrebbe sembrare una magra consolazione, però potete organizzarvi le prossime vacanze oppure far venire da voi qualcuno. Ecco, la possibilità sul couchsurfing è non solo di surfare sui divani di qualcuno se non volete che la gente venga a casa vostra, oppure ospitare gente a casa vostra, o si può anche solo bere un caffè. Si può bere un caffè, ovvero se c'è qualche persona che è in visita nella vostra città e vuole mettersi in contatto con la gente del posto per visitare la città in maniera diversa, ci si può sentire anche solo per un caffè. A proposito di questo, visto che la prossima settimana dedicheremo ben 3 puntate all'agosto in città, se voleste venire a bere un caffè da noi qui a Radio 24, scriveteci ad agosto@radio24.it e candidatevi, così magari facciamo 4 chiacchiere e cerchiamo di esorcizzare insieme la solitudine di un agosto passato in città. Quindi diciamo che le cose da fare se siete rimasti a casa sono tante, però noi aspettiamo le vostre candidature per la prossima settimana, e adesso ci fermiamo un attimo per la viabilità. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Ben ritrovati ad agosto, tecniche di sopravvivenza. Ecco, oggi si parla di quella volta che avete fatto le valigie ma che poi non siete partiti. Però se siete di quelli che hanno la casa al mare, in montagna, al lago, che hanno una barca, un camper ma non la possono usare perché appunto quest'anno non si parte, a giugno scorso è stata inaugurata la prima kermesse per il baratto della vacanza. Sì, avete capito bene, la Swap Vacanza. Ma diciamo, ormai quest'anno va un po' così perché è già il 2 di agosto e forse vi siete organizzati o non c'è tempo per organizzarsi, ma può essere bene saperlo per l'anno prossimo. È stata una vera e propria festa per scambisti e ne parliamo con Chiara Bettelli, una delle fondatrici dell'Atelier del Riciclo. Ciao Chiara, ma che cos'è questo scambio di vacanza? Ciao. Ciao, come va? Bene. Bene. Stavo riflettendo su quello che dicevi, forse c'è ancora tempo. C'è ancora tempo, fantastico, bene. Direi di sì, proprio perché questo tipo di vacanze si organizzano tra persone e quindi non c'è bisogno di agenzie o quant'altro. Allora, anche se noi abbiamo ospitato in questa kermesse sui navigli, sul barcone, anche dei tour operator molto orientati al rispetto dei paesi, alla solidarietà. Diciamo che le vacanze economiche a costo zero sono anche vacanze che sono buone anche per l'ambiente, per il pianeta, per le persone. Quindi scambiare è anche un esercizio interessante a livello psicologico, perché molte persone sono restie, no, a dare il proprio, e così come sono restie all'inizio a scambiare i vestiti o la borsetta. E invece è molto bello perché quando si dà poi si riceve in cambio, ovviamente. E certo, si rende eterno un oggetto, sì. Esatto, e così anche i posti, quindi per le vacanze prossime, per le vacanze invernali, perché ci sono, per le vacanze del last minute, dell'ultimo momento, si può veramente vedere di scambiare il posto in barca perché non si va più per un X motivi con la stanza in montagna, il posto in macchina, che non è uno scambio ma è una condivisione, perché c'è un posto libero in macchina per andare, non so, da Milano alla Puglia, adesso invento. Uh-huh. Ci può essere il posto in barca perché una persona appunto ha fatto forfè, non perché non si va più noi, come dicevo prima, e c'è. E lo scambio casa, che è interessantissimo perché veramente si può girare il mondo a costo zero dando a disposizione la propria casa quando si va nell'altra, oppure la seconda casa al mare o al lago. Certo, ma come funziona? Come ci si iscrive? Si iscrive, allora si può fare privatamente, ovviamente con un giro di conoscenze, farlo fra conoscenti e amici. Certo. Oppure c'è Scambio Casa, che è un sito internazionale dove ci si iscrive, c'è la filiale in Italia, e si trova comunque cercando Scambio Casa, e lì ci si mette in contatto con tutto il mondo. Ma mi sembra che abbiano fatto un film su questa cosa. È più o meno come quello di Cameron Diaz. Sì, brava, ecco. A lei va decisamente bene perché incontra Jude Law. Adesso magari. Direi che il tuo consiglio, la tua tecnica di sopravvivenza per chi è rimasto a casa, è rimasto a piedi, è di non, insomma, perdersi d'animo e magari trovare il modo di barattare, no, con qualcun altro una settimana o qualche giorno in un altro posto, giusto? Sì, e poi tra l'altro non c'è bisogno di farlo subito, nel senso che uno è rimasto senza vacanze, trova il posto, giusto, in barca, e poi ricambia in inverno. Perfetto. Cioè, ricambia un altro momento. Grazie mille. Sì, ciao, arrivederci. Arrivederci. Waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where's your shame? You've left us up to her neck. E 54, agosto, tecniche di sopravvivenza. Ma quali sono queste tecniche di sopravvivenza se vi salta la vacanza? Allora, pronti con un'agendina magari nuova, una penna, perché adesso arrivano le nostre pillole di saggezza, le nostre tecniche di sopravvivenza. 1. Le vacanze non esistono. 2. Non ti sono saltate le vacanze, sei tu che hai deciso che ad agosto partire non è cool. 3. Al primo accenno di lacrimoni, pensa a quanti soldi hai risparmiato. 4. In questo momento Barack Obama è come te, alla sua scrivania. 5. Evita capellini yankee, coltivazioni di orti biologici e riparazioni di tubi che perdono. Non sei Barack Obama. Ecco le nostre tecniche di sopravvivenza, speriamo vi servano a sopravvivere almeno fino a questa sera. Ecco, ma questa sera che cosa c'è da fare? Che cosa farete questa sera, oggi lunedì 2 agosto? Beh, il primo concerto dei Beatles ce lo siamo persi ormai, però se siete a Pescara c'è il concerto di Ligabue allo stadio Adriatico, Liverpool contro Correggio, direi che è un bel match. E se invece siete meno da certe notti ma più da Lucia alle stelle, e soprattutto se siete a Roma, in scena alle Terme di Caracalla c'è la Tosca. Mentre se siete a Gemona, in provincia di Udine, c'è l'elezione della Dama Castellana. È una partita di Dama Vivente sul sagrato del Duomo. Due borgate si sfidano e la borgata vincente avrà l'onore di vedere la propria rappresentante incoronata Dama Castellana di tutta Gemona. Appuntamento davvero pirotecnico se siete a Daci Buonaccorsi, in provincia di Catania, perché questa sera 21esima edizione del Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio. Beh, direi che per oggi è tutto. Tecniche esaurite come la conduttrice alla sua prima diretta e al primo appuntamento con Agosto Tecniche di Sopravvivenza. Vi aspettiamo domani con un nuovo punto di vista sul vostro agosto. Ecco, come abbiamo detto, il tema di domani potrebbe essere i rapporti di coppia, perché sono arrivati tanti vostri sms in cui le vacanze sono saltate perché siete stati mollati dalla fidanzata o dal fidanzato. Quindi domani, 3 agosto, lo dedichiamo alla storia d'amore che proprio in prossimità dell'estate esige, guarda caso, la pausa di riflessione. Come vi dicevo, aspettiamo anche le vostre candidature ad agosto @radio24.it per venire a bere un caffè con noi la prossima settimana, per parlare insieme di questo agosto in città e cercare e capire se avete un kit di sopravvivenza particolare che ci volete raccontare. Quindi vi aspettiamo, mandateci le vostre email. Leggo l'ultimo sms perché mi sembra molto divertente e di buon auspicio. Complimenti, io all'inizio sono sempre scettico con le nuove cose di Radio 24, ma questa mi piace da subito. Quindi grazie ancora, ringrazio in redazione Vittoria Mussini, Laura Faggini e in regia Roberto Scaltritti. Vi aspetto domani, sempre qui, alle 10 del mattino, ad agosto, Tecniche di Sopravvivenza. Ciao e buona giornata.